La legge 69 del 2019, denominata Codice Rosso, porta modifiche al codice penale, di procedura penale, ma in particolare disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Questa legge è intervenuta per adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale, in particolare la Convenzione di Istanbul, e conosce appunto carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai reati nei confronti delle donne. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, andiamo ad analizzare insieme alla procuratrice aggiunta della Procura della Repubblica di Bologna, la dottoressa Lucia Russo, a due giudici penali, la dottoressa Paola De Nicola del Tribunale di Roma e la dottoressa Paola Pasperona del Tribunale di Bologna, e con l'intervento e la partecipazione di Tiziana Zambelli, la presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, appunto, quali sono stati i cambiamenti e se effettivamente queste norme importanti hanno determinato una protezione delle donne che denunciano. Qual è di fatto ad ora la condizione dei processi? Noi abbiamo anche i dati che sono stati resi pubblici dalla Procura di Bologna e effettivamente la dottoressa Russo, in particolare la Procura, hanno già l'anno scorso adottato delle linee guida significative che hanno portato a un aumento delle misure cautelari adottate a protezione delle donne, perché noi sappiamo che la fase iniziale è la fase più rischiosa per le donne. Il Codice Rosso ha infatti creato una via prioritaria alla trattazione di questi procedimenti, in modo tale che non ci sia una stasi che appunto si ripercuote sulla situazione di pericolo e l'incolumità della donna. I reati di cui parliamo sono caratterizzati dalla reiterazione e purtroppo, come ben sappiamo, da una progressione criminosa che porta anche al femminicidio, e cioè all'uccisione della donna. Pertanto la protezione della donna, se avviene in tempi rapidi, attraverso delle misure di protezione, è una delle tutele maggiori che si possono adottare. E dicevo, la Procura di Bologna ha portato i numeri, in particolare dei divieti di avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dalla persona offesa e anche l'allontanamento dalla casa familiare, stiamo parlando di reati di maltrattamento nei confronti delle donne, a numeri importanti. Ovvio, ci chiediamo, è sufficiente? Beh, certamente è importante che ci sia un'attenzione, una trattazione immediata e l'adozione di queste misure di protezione. La violenza nei confronti delle donne è un problema che va trattato principalmente in funzione preventiva. Quindi, certo, questi sono gli strumenti che proteggono le donne, ma noi dobbiamo lavorare perché questi reati non avvengano. Venendo all'argomento che tratterà la dottoressa Di Nicola e la dottoressa Passerone, appunto giudici del Tribunale Penale di Roma e di Bologna, riguardo gli esiti dei processi, ma non solo gli esiti, i cui numeri sono piuttosto inclementi, perché dalla rilevazione Istat del 2016 di 14.000 denunce, le condanne sono 2.923, e dello stalking di 13.177 denunce, solo 1.601 sono le condanne. Che cosa interviene in questa fase? Beh, intervengono molti fattori, stereotipi, pregiudizi, la vittimizzazione secondaria della donna che da persona offesa del reato diventa imputata, e cioè si indaga sulla sua persona distogliendo lo sguardo dell'autore delle violenze. Dunque la fase iniziale del procedimento è sicuramente, ripeto, importante per la protezione della donna, ma ancora molta strada c'è da fare sia in funzione preventiva sia per quanto riguarda gli esiti poi dei processi. Persistono ancora pregiudizi sulle donne maltrattate all'interno di questi contesti giudiziari? E purtroppo persistono, e anche in forma rilevante. I pregiudizi, diciamo che non escludono nessuno, sono un po' dentro ciascuno, e pertanto le radici culturali in tutti gli operatori della giustizia, forze dell'ordine, i servizi, psichiatri, psichiatri, psicologi che intervengono nel fare delle valutazioni, ad esempio sulle capacità genitoriali di un maltrattante, e che non prendono in considerazione la violenza agita nei confronti della donna in presenza di un figlio. Sì, sono l'elemento più grave di tutto il nostro impegno nel sradicare la violenza nei confronti delle donne.